uccidono. Chi è avanti? Frangozzo, California. Chi è che chiama California? Avanti sul 10. Attento, Giulio Dollaro. Giulio. Giulio. Sì, io tengo se quiere esperar y yo traigo cuota. Vale, yo el último. Anche lui da Wissi e Company con la 105. Non so, Marina, abbassa un pochino perché sei troppo forte e non è chiara la modulazione, o forse devi abbassare, non so cosa. Stavo dicendo, Nathalie, ciao Nathalie, ma il discorso è questo, io ho chiamato tre volte, mi hanno risposto subito, anzi, vendono la chiamata, no? E prendono appunti e dopo ti richiamano anche e me l'hanno fatto. Ma io che cosa rispondevo quando mi hanno chiamato? Io non ho mai fatto contest, Nathalie. Se non li hai mai fatti non sai come funziona, perché su internet tu devi leggere il regolamento del contest e tutto e come funziona, se no è inutile, io non ne faccio mai contest. Appunto, è quello che ti sto dicendo, ma se io volessi fare, cosa devo dire? Una volta che, perché io facevo la chiamata e mi beccavano subito, o meglio io che beccavo loro, cosa ne so. Il fatto sta, due volte mi hanno detto in attesa, e si vede che prendono appunti, e poi li chiamano, hanno chiamato loro, 165 Sassari, io ho fatto 165 Sassari Contex, e loro, voi mi hanno chiamato, però io cosa rispondevo? Non sapevo che loro mi hanno chiesto una sigla, che sigla gli devo dare, se vuoi sapere? Gli devi dare il numero progressivo, il contest l'hai organizzato tu per i cavoli, tu non puoi fare uno 6-5 sassari, capiti, ma non dico se non li sapete, è un macello, I gruppi sfilano velocemente, capito, nonostante a... perché il contest lo stavi organizzando tu quando hai detto sassari, le campagne come... così è, appunto, vabbè dai, vuol dire, guarderò qualcosa su internet per vedere e capire qualcosa, ma comunque devo dire che è una cosa che non mi piace molto, è troppo casino a modulazioni uno sull'altro, ma da tutta l'Italia, addirittura uno ha paventato da Haiti, ti puoi immaginare, e io ho sentito bene, ma comunque, avanti Marì. Ma buona salutazione Giulio, che basta? Abbassa il macchi gay Marino, non sei comprensibile, devi abbassare il macchi gay, è troppo alto, stai strappando di brutto. Fastidioso, nel senso che è una voce un po' complessa in un certo senso, che adesso forse devi abbassare, cosa stai usando? Se stai usando il K devi abbassare il coso, il mic gain, cioè il volume devi abbassare, anziché essere a 2 ad esempio metti la 1. Guarda questo passaggio, troppo alto stesso, devi abbassare ancora e parlare a voce piano, non devi urlare, perché come fai a urlare strappi immediatamente con quello lì. Ti ho sentito, non so nemmeno io come ho fatto a capire che eri tu sul canale 20 dell'altra banda, però non in questa, dell'altra banda. Va bene, dai, adesso lascialo così, che così già va bene, va lì. Apparecchio nuovo, e faccio un po' di pratica, Giulio, con calma, ma devo studiare tutto, capito, piano piano, va. Ok, Natalino, avanti. Adesso già stai andando bene. Non riducata così, se no, guarda, non è possibile capirti. Perché vai a strappare subito, devi parlare piano piano e lontano il microfono, lo devi tenere. Più il macchinino deve essere regolato così, se no non ci si capisce. Ok, dai, già ho abbassato un pochino, dai. Già ho abbassato. Spiegami a Giulio, Natali, come viene a fare a scrivere cosa fare? Come? Spiegami a Giulio, come deve fare, che si deve scrivere, a Whisky Whisky. Boh, non ti ho capito cosa hai detto. Ho detto, devi spiegare a Giulio, come fa a scriversi per dare quella sigla? Tutti i buoni pur, nominativo tu, 165, è la sigla della Sardegna. Quando tu dici 165, sanno già che stai trasmettendo dalla Sardegna. Non devi iscriverti da nessuna parte. Il mio è 110, il tuo com'è? Come 110? Io ho la sigla 110. Non ho capito, ma dove sei iscritto tu, perché? Adesso ti vado la foto, Natalia, riprendi 2 minuti, riprendo io, dai. Allora, aspetta, adesso ricapitoliamo. Natalia, ascolta, facciamo così. Io adesso, tu stai facendo contact, no? E io entro e ti dico, ascoltami bene, 165 sassari. E quello mi dice, attesa, va bene, e io attendo. E poi lui poi mi chiama, dice 165 sassari avanti. Cosa rispondo? Boh, quello che voglio sapere, cosa devo rispondere? Quello sassari non lo devi usare, perché è come che tu lo stai organizzando. Vabbè, ammettiamo che non dico sassari, dico 160, e mi dice avanti 165. E cosa, quando io devo riprendere, cosa devo dire a lui? Come faccio ad andare avanti? Cosa gli devo dire? Devo dare un segnale? Cosa devo fare? Santiago per dire, non so, no Santiago, Radio 5, 5-9 per dire. Ecco, qua c'è un sistema di radiomotori. 5-9, boh, non lo so, cos'è che devo rispondere per andare avanti? Devi metterti un nominativo completo, praticamente metti 165 e le tue iniziali, me ne vanno le tue iniziali. Vabbè, e quando io le sono dato le due iniziali, poi basta, finisce lì. Cosa mi sono? Allora posso dire, per dire che sono io, IS0 SWL. No, stai sbagliando tutto, Giulio, hai travisato tutto. Allora, le tue iniziali sono Golf e poi il cognome. Beh, quando avevo fatto questo, con le due sigle, e poi cosa, come si continua? Gli dici quelle lì e loro ti fanno entrare. Capito, vai. E fai il discorso come che fossi un nominativo normale. Solo che loro sanno già che tu trasmetti dalla Sardegna. Quando tu chiami fai CQ, e poi dici il tuo nominativo 165 Golf India, per esempio. Dalla città di Sassari, vai. E loro ti fanno entrare. Però non devi dire 165 Sassari, perché se no tu Contest non lo devi chiamare, perché tu se chiami Contest è come che lo stai organizzando tu. E allora devi dare i numeri progressivi, devi fare un regolamento, non è come dici tu. Bisogna che ti informi su internet. Scusate, non sai guarda, ti ho mandato la foto. E Giulio riprendi che mi ha chiamato delle poste. Ci sentiamo dopo, dai. D'accordo, Maria, dopo, dai. No, vabbè, dai, mi documenterò su internet o Natalia. Adesso è inutile continuare così, perché intanto non ci siamo spiegati bene, perlomeno io non ho capito bene. Perché a me mi interessa poi se devo andare avanti che cosa rispondo. Penso con maglie che basta asciutta, no? Ma dico io, quello che mi interessa. Dopo che ho fatto tutte queste cose qua, 165, vabbè, d'accordo, lui sa che sto trasmettendo dalla Sardegna, e da voi cosa dico? Ciao e vai, mi spiego, tanto per dirne una, no? Vabbè dai, mi documenterò poi su internet, no? Non c'è problema, vuol dire cercherò le pagine su internet e vediamo un po' cosa dicono. Va bene Natali, dai. Breakede. Avanti. ciao a tutti. Giulio, poi non so se Natalino mi correggerà, dovresti dare il numero di progressivo, praticamente tutti i tuoi collegamenti che hai fatto in base a quello, se hai aperto il conto, che ne so 01, e lui ti dice, per dire 050, 050 sono quello che ha lui, e tu 01 quello che hai fatto tu, e così via. Nel frattempo che tu fai altre chiamate, gli fai 02 a un altro corrispondente, e così via. Però devi seguirle queste cose, perché non è così semplice. E appunto, quello volevo sapere, come devo io, ciao intanto Tino, quello che volevo sapere, come una volta che mi chiamano, o meglio che io entro e lui mi sente e mi chiama, o mi dice di entrare, o mi dice avanti, poche parole, è quello che volevo sapere, come dovevo andare avanti, tutto lì, solo quello intendevo, vabbè dai, comunque adesso mi do un'occhiata su internet, stasera, così quando non ho niente da fare, e così vediamo un po' di stabilire come mi devo comportare. E poi tra l'altro non è che mi piace assai, ma era solo una curiosità. Io stavo pensando addirittura, Tino, ma quasi quasi vedo io la sigla IS0, però specificando SWL, capito? Capito? Quello, magari col numero della SWL, invece no, tu mi stai dicendo che devo dare il conteggio dei collegamenti che ho fatto. Adesso sto cominciando a capire meglio, ma è ancora sì. No, a parte che tu IS0 non glielo puoi dare perché non sei un radioamatore, però è una sigla che danno ai radioamatori. Tu puoi dare, per dire, come stai dicendo Natalino, il numero 165 è una sigla che gradisci o preferisci tu, dopodiché però devi avere un PC e seguire tutte queste cose qua, perché poi vanno al log. E allora, ma Edu non ha di va a cose, te roba come fanno i radiamatori, uguale. Io sto solo pensando, specificando che sono SWL, dunque loro lo capiscono benissimo, no? Quello che Astoria. Si va avanti con questo discorso numero 01, 02, 03, come mi stavi dicendo tu. Comunque mi documenterò su internet e vedremo un po' che cosa riesco a capirne. Va bene, avanti la testa. Io sono iscritto, anche Marino è iscritto alla sezione Whisky Mike di Marsala. E io dico 165 il nominativo mio è, e poi Whisky Mike, che sarebbe il gruppo Whisky Mike, e poi il numero progressivo che ci danno loro. Il nominativo è composto così. Ho capito, dai, sto cominciando a capire. Se me lo spiegate bene, io gioco d'onto, però capisco abbastanza bene, tra virgolette, no? Per cui, siccome io non l'ho mai fatto il contest e non sapevo, allora praticamente io devo innanzitutto avere una iscrizione ad un gruppo, come si chiama, non lo so, un'associazione, non lo so come si chiama. Come si fa per iscriversi a questa associazione? Tra l'altro esiste la Lega, no? Io non lo so. Vai su internet e c'è il gruppo Whisky Mike, per esempio, e ti iscrivi lì e ti danno il nominativo loro. Oh, ma stai cominciando a spiegarti meglio, hai visto? Ci stiamo arrivando piano piano dopo lunga e pelosa malattia. Va bene, vedrò di trovare qualcosa. Vai Tino. Bene, io intanto sto sempre provando questo microfono, poi mi dareste conferma se va a abbassarsi o meno, perché io credo che non stia andando come dovrebbe andare. Va bene, ma devi seguirle queste, insomma, un po' impegnativo, ma giustamente chi ha tempo e chi vuole dedicarsi a queste cose è anche bello, perché poi inizi a collegare un sacco di gente. Ok, dai, datemi conferma se, per cortesia, se questo microfono va a perdere, perché a quanto ho capito io, in base a come lo si utilizza, vedo che vada a perdere o a surriscaldare qualche componente e quindi va in perdita. Ok, grazie. Come microfono questo è proprio basso, già si capisce quello che dice, ma è molto ma molto basso di volume. L'altro era un microfono, questo qui è troppo scarso come volume. Adesso te lo faccio confermare anche da Natalino. Vai Natalino. C'è qualcosa che non va nel circuito di preamplificazione, Tino. Gavanniru, a che magari te lo fai controllare da qualcuno, perché ci sarà qualche condensatore in perdita, qualche cosa. Lì. Come scalda si fa mancare la radio. Come si sa che il processore è all'improvviso? Ho capito, ho cambiato, ho messo il mio. Questo già dovrebbe spingere, ma è strano, cavolo, è strano, perché sì, qualche componente l'hanno cambiato, però no, vedo che va in perdita. Questo è, va bene? Questo è lui. O magari c'è qualcosa che fa falso contatto e ti fa mancare la radio, tipo quel tassino che c'è sotto, che è on e off, che magari non sia quello che fa falso contatto e ti fa mancare la radio. No, quello in e out, sì, ma è in, è in uscita, quindi dovrebbe andare bene, dovrebbe schizzare, invece nulla, non va. Peccato, perché è anche tenuto maniacalmente, è perfetto, è bello, lucido, però se non va. Anzi, volevo fare una cosa, anzi no, l'avevo già fatto, ho cambiato il mio gelato, l'avevo messo lì. E ha fatto lo stesso, no? Ha fatto la stessa identica cosa, quindi posso provare a mettere questo gelato qua nel mio, nel sistema di amplificazione che c'è qua, a vedere un po' se cambia, no? Non mi interessa, è una cosa che vuole controllata, vuole aggiustata. L'importante è che questo stia andando, dai. Questo va benissimo, non bene, di più, oh Dio, questo è ottimo, veramente bello. benissimo, si capiva quello che dicevi, tutto quello che vuoi, però era molto ma molto basso il radio. Questo è alla grande, in poche parole, di gusto. Riprendi Tino. Bene, grazie, dai. Vabbè, un microfono non riuscito. Tu pensa che Giulio, un'altra persona mi ha dato un altro in scatola, addirittura, in scatola, nuovo, mai utilizzato, sempre di quella concessione lì, però di quegli anni lì, non va bene, caspita, non riesco a trovare un MC 60 compatibile con la mia radio, non riesco a capire il perché. Perché loro lo utilizzano in altre frequenze e in banda, e gli hanno fatto anche complimenti come amplificazione, però usandolo in AM sicuramente ha qualche cosa che non va. Non lo so, scusate un attimino che mi sa che ho troppi watt, se non sbaglio, vero? Ora, ecco, adesso ho abbassato un pochino, era troppo alto di carrier. Va bene. Ma no, non direi, visto il segnale, Tino, non direi che avevi troppi watt. Va bene, vediamo un po' se sono regolato bene, sì, te l'ho messo bene io, no, stavo guardando il segnale. No, guarda che non è in Santiago 9 praticamente qua, Io sto andando con 2 watt, suppongo che Santiago 9 riesco ad arrivare a te lo stesso. Cosa stai usando? 45? Sì, però avevo il carrier troppo alto. Adesso lo abbasso a 10 watt. Ora. Eccolo qua. Aspettate, eccolo qua. Ora sì. 10 watt, poi col picco di modulazione già va lo stesso. Va bene, dai, ci facciamo un po' indietro a Natalino. Vediamo un pochino, dai. Andava vecchino, adesso va bene. Cosa ti volevo dire? Ma tu sei Radio Maturi, perché se ne va nel 27? C'era uno con una quadricubica, fa vedere con me. Cosa ti posso dire? Mancanza, mi sta piovendo, no? Nostalgia, non so cosa vuoi che ti dica. Natalì, io sono nato CB e rimango CB, non ho fatto di nulla. Mi piace ascoltare altre bande, per carità, mi piace avere delle belle radio, però sinceramente è la mia vita l'ho trascorsa la maggior parte, voglio dire, parlando in CB, quindi non mi interessa. E infatti tutti questi radioamatori in CB che se ne scendono, tutti quelli direttivi, questo c'aveva l'apparato che stavo usando io, è più una quadricubica, mi ha fatto pure i complimenti, anzi mi ha domandato quel microfono e rudratendi. Tu pensami, Giulio già mi ha sentito ieri, stavo parlando con Lecce, con Napoli, e c'era questo qua che alla fine parlando ha parlato un po' di cosa stava utilizzando, delle radio che aveva, ma le varie, e questo qua era un IS0, quindi anche tu usi, aveva un Lincoln che stava parlando con me in 27. Sì, anche questo qui stava usando un ICOM, uguale a stavo usando una radio come quella che stavo usando io, mi ha fatto pure i complimenti. Stavo arrivando sparato, dov'è? Aspettami, va, ti lo dico, ve l'ho segnato. Ah, Trento. Da Trento stavo a parlare. Vabbè. Nostalgia, Natale, cosa vuoi ti dica? Io addirittura ho attaccato anche l'amplificatore grande infatti lui arrivava a Santiago 5, io là arrivavo 9.20. E tu c'è un po' di differenza, qualcosina, sì dai, credo. Aveva la Mantova 5 lui e io la 1. Però vabbè, era giusto per giocare un po', per vedere un po' quanto arrivavo. Vai Giulio. Ma Giulio non risponde. Una cubica a 4 elementi stava usando questo qui, oggi arrivi ai palabri. Quelle sono belle antenne, però Natalì, io non ce l'ho, però conosci, sai benissimo cosa, con chi frequento, con chi lui ce l'ha, è impegnativa e ci vuole un grosso traliccio, secondo cosa metti, secondo che cubica metti anche, insomma è impegnativa e poi costa. Lo so, infatti dice, lui teme quando c'è vento lì perché 4 elementi cubica è molto impegnativa, già lo so, c'è un rapporto spaventoso, ha detto, cavolo, e la menura va vedendo in sura. Sì, vabbè. Guarda, io mi stavo attrezzando per fare tutto l'impianto, ma questo qualche anno fa, addirittura un radiatore di Alghero, un amico mi ha regalato una direttiva per i 10, 15, 20, e tra, è inutile che va la piatta, c'ho il diploma che va molto bene, in ascolto poi faceva più di quella, è un barrasone, barosa, ma nulla, lascia perdere, non è un'attività che frequento, che faccio, quindi non mi interessa, però in ascolto basta un filo, che effettivamente se è fatto bene, ascolti benissimo, tanto è vero che dalla Mantova al Dipò, sei benissimo, c'è un abisso in altre frequenze. Lo credo, io ho fatto una scatolina per fare un dipolo multibanda, cazzo, mi hanno fatto anche i complimenti dei tecnici, amici miei, che hanno visto la situazione, ci ho messo un turuvi da dentro, ma tu la devi vedere come te, ed è multibanda questa antenna, è un dipolo multibanda, puoi farti anche una verticale multibanda con un balun così come quello che ho fatto io. Scusate, è mancata la corrente poco fa qua. Ce ne siamo accorti, Giulio, perché ti abbiamo rilanciato e non è ripreso. Anche qua è mancata, anche qua è mancata 2 volte, infatti avevo la radio accesa e un po' mi ha disturbato. Però dai, speriamo non succeda 3 volte. Sì, Natalia, questo me l'ho ordinato, questo tuo video qua, perché Gavino, Joker, mi deve fare un'antenna, stesso così come stavi dicendo tu, che per l'ascolto è molto, molto utile. Ovviamente io ho visto un video che mi ha mandato, non ci credevo, mi sembra che arrivava a Santiago 5 con un'antenna, invece 9,40 con l'altra, e cacchio, un abisso c'è proprio, e ho detto sì, in ascolto è micidiale, certo non puoi, credo che non si possa modulare. No, tu attacchi un accordatore decametrico e ci parli con quella che ho fatto io, ora ti intendi. Addirittura poi batti oro di polo oppure un'antenna verticale multibanda. Bene, vabbè, non si finisce mai, però io sono negato, devo essere sincero, a me piace altre cose, ma non fare antenne, adesso me ne ho regalato una per il PMR che è circa 50 centimetri, però ha una carica, ha un cannoncino da 40 centimetri, da 30 centimetri anzi di lunghezza, per una circonferenza da 40 da 4 centimetri, e quindi lo dovrei piazzare solo che ha il PLN, quindi devo organizzarmi. Gli metti un riduttore, gli metti, se non ti sai fare l'N, e ci attacchi il PL al riduttore e vai con quello praticamente. Sì Natale, farò così, senza ombra di dubbio farò così, perché ho tutti i cavi, ho una discesa di cavo che non è in uso, diciamo che la posso utilizzare con quello. Niente, comprerò un riduttore come sei già tu, quando sarà lo piazzerò. Va bene, vai Giulio. Ok. Certo che sì. Dimmi una cosa, tu che hai la radio professionale, questo segnale con 2 watt, come ti arriva lì da te o Tino, il mio segnale? Guarda bene però, anche questo, 1. 19.15 il primo passaggio, che era attaccato. Attaccato vai quasi 9.25. Ho capito, no, non c'è niente attaccato qua. Qua non c'è niente, è solo la radio, è il baracchino praticamente, non la radio, il baracchino Ottino, sì. 2.10, intendo, già mi capisci, no? Da 2 a 10 ho fatto, per cui il massimo è quello, non c'era altro, poi tutto il resto è tutto normalissimo. Baracchino è alimentatore, basta, niente di più, vai. Va benissimo. Va bene, ti ripeto, ho circa 15 watt ora di portante fissa e gli altri modulanti che avevano 50, 60, non so. Ma va bene così. Giulio. Sì, beh certo, già va bene, tu vai sempre bene, non c'è problema. Avanti Natali. Lì ce l'avevi tu quel valum che avevo mandato via WhatsApp. Stai dicendo a me Natali, no, io non l'ho visto il valum che hai fatto, non l'ho visto io. Ah cazzo. È perché io non so neanche il numero di Tino, se no gliel'avrei mandata a vederlo. Quelle valum. Era senza il coperchio che ci vedeva tutto l'interno, no? Ho capito. Sì, anch'io ne avevo uno fatto da me contro lui del T200, quello colore amaranto, dai. E l'ho regalato, era 4-1, il mio era 4-1, sì che non però ne ho ancora altri due su lui, che se voglio me lo rifaccio. Ma uno l'ho regalato direttamente dentro la scatoletta e tutto quanto, pronto ad attaccare. L'ho regalato ad un amico, che non sto lì a dire il nome, chi l'ho dato. Comunque, se lui l'ascolta già mi ha capito. Va bene, avanti chi? Suppongo che sia la stessa persona che deve fare a me. va bene. Non siamo lì a dire chi è che non è. Sì, anche io devo rifarlo, ma giusto per vedere un pochino come si comporta, dai, diciamo. E va bene. Beh certo che sì, Tino. E vabbè, dipende dalla linea che uno fa, dal dipolo che uno fa, con quale materiale lo fa. Io ho fatto 4-1 perché appunto evidentemente era per una linea da 400 ohm che poi venne ridotta a 50 ohm, perché se 4-1 è così. Dipende dalla linea che tu costruisci, allora devi mettere il palo appropriato per scendere sempre ai 50 ohm, tutto lì. Sì, già hai capito, quella persona che l'avevo dato, un amico, non c'è problema, Ottino. Vai, riprendi e fai girare tu, vai. Eia, va bene. Cosa si fa per ascoltare? Ma giusto per passare qualche oretta tranquilli, rilassati e insomma, perdere un pochino di tempo anche su questa radio. Andare, vai Natali, vai. Sì, infatti io ne ho tolto tutto adesso, perché non sto più ascoltando più da nessuna parte, non me ne sbatte nulla. Mi HDX mi posso ne andate e la cosa ti dico Natali, va bene, dopo tanti anni ci siamo un po' raffreddati, diciamo, perlomeno io, comunque già va bene, non c'è problema, continuiamo lo stesso. Dopo 52 anni quasi, 51 anni e oltre, dallo 72 fai il conto, febbraio 72 siamo già a 51 e 4 mesi, dai, e 4 mesi. Ieri praticamente ho iniziato, Tino. Lo so, vabbè. Comunque avete notato, ci è alzato molto il corrente. La pioggia, qua sta piovendo molto, penso che abbiano bloccato anche la cavalcata, se c'è qualcuno che la sta guardando in diretta, io non la sto guardando. Io non lo so, su canale 10 ci dovrebbe essere, adesso lo vedo, vediamo un po', adesso lo accendo, metto canale 10, intanto ce l'ho davanti io la televisione, vediamo se c'è la cavalcata o se la sorpresa. Però l'avevo già sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, guarda, noi, io ho visto delle cose sia Olmedo, noi non vediamo vicino a Giulio, da ora sarà più bello, a Olmedo quando ci sono andando l'acqua, è iniziato a fare danni, per carità, dove ci vanno a finire? chiesto un po' di cose, perché effettivamente con tutte queste persone che ci sono sbaraglio senza fare niente, loro vogliono impegnarle e iniziare un po' prima a pulire tombini e quant'altro, tombazioni e quant'altro, perché effettivamente molte cose capitano. Io ho visto dei tombini, per carità, completamente pieni di terra, cioè era tutto l'asfalto, è logico che l'acqua non va a entrare lì, quindi avrai una situazione brutta in un secondo momento. Ecco quello che voglio dire io, non è che c'è la possibilità di avere la manovalanza e non la sfruttano. Sì, infatti quello diciamo che è anche un problema del comune, che non fa le manutenzioni adeguate proprio prima di arrivare il tempo brutto, per cui se i tombini sono sporchi, pieni di fogliame, pieni di terra, è chiaro che l'acqua non può defluire. No, ma qui dove abito io proprio è perché mancanza addirittura dei possetti di defluzione, non ce ne sono proprio qua, praticamente dalla parte più alta tutta l'acqua che arriva arriva dalla strada dove abito io. Fortunatamente, perché io ho la tavernetta, no? Fortunatamente la strada è un po' in discesa dall'altra parte, non verso la mia finestra, ma bensì nel senso contrario, se no mi sarebbe entrata l'acqua. Di questa situazione qua, che però avevano fatto una squadra di persone che si chiamavano lavori socialmente utili, cioè queste persone qua si venivano pagate e andò a casa, però una volta che hanno fatto lavori socialmente utili li hanno impegnati a tagliare legna, a pulire strade, a fare tutti, insomma, un po' di una volta pagata c'era, non no, gente pagata senza fare niente, per carità. Probabilmente diciamo che le istituzioni sia comunali che provinciali sono diciamo bloccate su questo particolare quadro. Oddio, suppongo che sia così anche. Ma stai scherzando Giulio, che qua sono venuti a riposarsi, no, a lavorare. Se tu li fai lavorare poi diventi carattista. Sì, non è sbagliato il discorso, sto scherzando, però non è sbagliato il discorso che stai facendo tu, perché effettivamente non sarebbe una cattiva idea insomma impegnarli e magari anche perché ne so, loro tanto prendono gli aiuti economici, li prendono, effettivamente impegnarli non costerebbe niente, fargli un'assicurazione a parte chiamarli alla, poi ci sarà chi non va, si farà una, vabbè, qua in Italia ha funzionato male, quindi inutile stare lì a dire le tue o le mie, tanto non faranno mai quello che noi vorremmo. Sì, quello sì, ma guarda, io ad esempio qua dove abito io, in una zona di dove abito io, c'è un pezzo di terreno, cioè, che il comune l'ha dato a queste persone qua, a questi extracomunitari, per lavorare, eccetera. Sono dei terreni a spalle di costruzioni, praticamente. No? Beh, c'è stato qualcuno di Sassari e della zona dove abita, appunto dove sono questi terreni, che si è presentato in comune e ha fatto una richiesta se lo lavano a lui per poter fare un po' di manutenzione, lavorarlo, piantare qualcosina, tipo, che so io, anche fiori, eccetera. Nulla da fare. L'hanno dato a questi extracomunitari, l'hanno dato. Ma dico io, e tanto quel terreno com'era prima e adesso, cioè incolto, per dirti, no, cosa dell'altro mondo, cosa vuoi che ti dica? Sì, sì, ho capito anche dove, ho visto che c'era qualche casetta piccolina, insomma, una cosa usatrice, una cosa del genere. Cosa vuoi che ti dica, Giulio? Ti ripeto, le cose che fanno qua le fanno alla Carlona, quindi non, ma chi è che va di loro a zappare, a tentarci che cosa? Ma lascia perdere. Forse interessava più che altro a quelli che abitano lì vicino per avere un pezzettino di terra, uno svago, quattro fiori o due piante di pomodoro, un po' di prezzemolo e quant'altro. Queste sono le cose che potevano anche far andare avanti. Dove farci? Vediamo se è rientrato, Natalino, sei rientrato? Poi un'altra novità è cosa che non ho mai visto, che non è mai successo, almeno per mia memoria, non ricordo di aver visto mai una cosa del genere in televisione. Stamattina sul canale 1, in studio, c'era addirittura il Papa seduto e c'era la giornalista e un gruppo di persone che lo intervistavano e parlavano con lui. Praticamente il Papa è apparso in televisione su canale 1, ma non per pregare o dire no, proprio per parlare dei fatti di un po' correnti del momento, capito? Vai il tiro. A quanto ho sentito poi, questo sarà l'ultimo Papa, quanto ho capito io, quanto hanno detto. Questo non te lo so dire, ma non credo che rinuncino, quando non ci sarà più questo Papa sicuramente ne faranno un altro, come di consueto è così. Per cui, ma per dire, io non ho mai visto un Papa in studio televisivo. Presentatrice si vedeva che era un po' imbarazzata, sai, davanti al Papa, e evidentemente non si trovava a suo agio come solitamente fanno questi presentatori. Era una donna, una donna, e c'erano altre persone che parlavano, anche di persone che magari prima erano, diciamo, un pochino birbanti da giovani e che poi sono diventati anche dei geni addirittura, e questo è bello, non ci sono dubbi. Ma per dirti, la novità è il Papa in studio, in uno studio televisivo, cosa che a me, a mia memoria, non è mai successo. Dove faccio? Ma va bene, dai, giù, io devo volare qua, devo dare una mano. Lo stesso qua, tra preparazione e ballevare, oggi siamo un po' riuniti, quindi do una mano anche io, contribuisco nell'ambito familiare. Dai, ci sentiamo, Giù. Mi ha fatto piacere cambiare quattro chiacchiere con voi. Niente, dai, si coincide alla prossima volta. Un abbraccio, ti saluto. Ciao Giulio. Ok, ciao sì. Grazie a te per la chiacchierata e un abbraccio anche da parte mia. Alle prossime, è sempre un piacere scambiare quattro chiacchiere con te o Tino. Alle prossime, ciao ciao. Se tuo padre si ricorda ancora di me, tanti saluti da parte mia. Ciao, ciao sì. Ci mancherebbe altro che se ne dimenticasse. Cioè, glielo dico, sarà fatto. Ciao ciao. Ciao ciao ciao a tutti.